fiamme divorano tutto. Sono il solo vestito a lutto. Madre è stata attaccata prima che fosse capita. Le fiamme divorano tutto. Sono il solo vestito a lutto. Perché a me volevo dire Marte. Ma che cazzo sto dicendo pure io?